Incontri di Gianfranco Fabi. Ecco, con questo brano dal film Tra le nuvole, un film di qualche mese fa di George Clooney, iniziamo l'incontro di oggi, un film che era dedicato a una persona che aveva un mestiere un po' particolare, era una persona che comunicava dagli altri, a dirigenti, impiegati, operai, che il loro compito presso una certa azienda era finito, era un classico tagliatore di testa. Ecco, un inizio un po' provocatorio per presentare, e me ne scuserà, il nostro ospite di oggi che è Antonio Migliardi. Buongiorno, dottor Migliardi. Buongiorno. Dottor Migliardi, perché abbiamo messo la canzone dei tagliatori di testa, è il capo del personale della Telecom, una delle più grandi aziende italiane. Quante persone sono? Adesso 50.000, parlando della SPA Italia. Quindi 50.000 persone da controllare, da motivare, da gestire, ed è certamente un grosso impegno. Dottor Migliardi ha avuto anche altre esperienze. Ecco, io vorrei proprio iniziare a chiedergli che cosa voleva fare da piccolo. Il filosofo. Avrei fatto volentieri il filosofo, però sul fine degli anni 70, inizio degli anni 80, non era una carriera molto promettente. Quindi feci come tutti, mi iscrissi in legge, che era un po' una laurea jolly, e contemporaneamente chiesi ad entrare al Credito Italiano. Ah, Credito Italiano, che adesso è diventato Unicredit, una banca di cui si è parlato molto nelle ultime settimane. E quindi ha iniziato, diciamo, fin dall'inizio una carriera manageriale. No, affatto, tutta gavetta. Io sono quello che si dice un self-made man, quindi ho fatto l'impiegato di banca, il classico impiegato di banca, grazie al fatto di essere un riservista tecnicamente. Poi dopo la laurea in legge che conseguì in servizio, perché l'ultimo anno lo feci lavorando, invece uscii, abbandonai la banca che non mi sembrava un ambiente adeguato a vivere, provai altre cose. Entrai in SIP, nella SIP dell'83. Era ancora partecipazione statale? Era una partecipazione statale, andava incontro alla prima ristrutturazione importante da quando era nata, che era quella, la ristrutturazione di Benzoni e Zappi, quella con mercato e rete, fu la prima impostazione di un tentativo di orientamento all'area mercato. Era una fase da organizzazione nascente, molto interessante. Era ancora un monopolio però allora. Era un monopolio, ma era un monopolio illuminato che tra l'altro incontrava alcune transizioni importanti, una di tipo regolatorio verso una situazione più competitiva di mercato e l'altra di tipo tecnologico, soprattutto visibile nella trasformazione delle tecnologie di rete, delle centrali in particolare. Beh, direi che proprio il settore delle telecomunicazioni probabilmente è quello che ha avuto la rivoluzione tecnologica più ampia negli ultimi 30 anni. Sì, è passato da una rivoluzione ad un'altra. Purtroppo dal punto di vista di un monopolista sono state sempre delle rivoluzioni che non hanno comportato incrementi occupazionali, sono state sempre delle drastiche semplificazioni della filiera industriale. Ecco, questo proprio perché la tecnologia ha comportato un'automazione delle procedure, una maggiore capacità di integrazione tra i sistemi e quindi il valore della persona in fondo rischiava di andare in secondo piano. In questo senso lei si è occupato subito di gestione del personale? Sì, io sono entrato in SIP nel mondo della gestione del personale, ho fatto tutta la gavetta sui diversi mestieri del personale, il professional di regione, il responsabile di relazione industriale di regione, il capo della normativa nazionale. Ed era una fase in cui l'illusione era quella di un progresso lineare, di una crescita continua. L'Italia era di fronte al problema della telefonia di base, di dare il telefono a tutti, quindi si assumeva, si investiva e sembrava dovesse durare per sempre, insomma. Diciamo che da subito il problema fu quello di gestire in modo ordinato, dal punto di vista del personale, le cifre della crescita. Ecco, poi vedremo anche questo tema della gestione del personale, ma torniamo un po' alla sua esperienza. Lei poi è uscito anche da SIP, ha avuto altre esperienze in altre grandi aziende. Sì, io ho fatto 15 anni in SIP tra l'83 e il 98, quindi mi sono fatto 6 anni di regione e poi tutte le ristrutturazioni della SIP degli anni 90, dal 91 al 98, in mestieri diversi ma dell'organizzazione, quindi all'interno del personale di quel particolare mestiere che è l'organizzazione. Nel 98 in SIP arrivò Rossignolo. Io molto francamente non trovai rassicurante il nuovo orientamento che andava maturando e accettai delle proposte che in quel periodo mi arrivavano dal gruppo Ferrovie. Andavo in Ferrovie, seguì Cimoli, ho fatto 4 anni di Ferrovie dello Stato, 3 anni di Trenitalia, poi Cimoli è passato in Alitalia e mi ha chiesto di passare con lui, ci sono andato. Poi ottenuta la ricapitalizzazione alla fine del 2005, per me è una data importante, le strade si sono separate, ho fatto ancora una breve esperienza in Vitrocisat e poi ho accettato di tornare in Telecom con Bernabé. Quindi sempre di comunicazioni comunque, telefoniche, ferroviarie, aeree, c'è qualcosa in comune? C'è qualcosa in comune tra tutte le aziende di servizio italiane. C'è qualcosa in comune dal punto di vista soprattutto della complessità. L'Italia probabilmente ha molto da imparare per quanto riguarda la competitività da altri contesti mondiali. Ma per quanto riguarda la complessità gestionale, l'incrocio tra diverse variabili, no. Ma questo perché c'è un retaggio di aziende controllate dallo Stato, di aziende che dovevano badare un po' meno di altre al conto economico, oppure per la natura stessa di queste imprese molto diversificate, molto estese sul territorio, molto grandi? Io credo, è una opinione ovviamente, io credo sia perché le imprese non fanno eccezione alla regola generale del sistema paese, che è bravissimo e ipertrofico nella progettazione, è molto meno efficace, molto meno produttivo nella implementazione. Cioè nella capacità di gestire nella concretezza. Sì, cioè noi eravamo il paese delle 150.000 leggi. Eravamo il paese abituato a esaurire tutta la spinta propulsiva dei cambiamenti con l'annuncio del cambiamento. Era una cosa, certo, che per esempio in Ferrovie si diceva molto, si diceva che Ferrovie raccoglieva, parlo di altre ferrovie del passato ovviamente, raccogliesse tutta la sua energia e la esprimesse tutta al momento dell'annuncio delle grandi ristrutturazioni. Incontri. Riprendiamo il nostro incontro di oggi. Buona domenica ancora a chi ci ascolta, con Antonio Migliardi, capo del personale della Telecom. Abbiamo visto nella prima parte la sua esperienza, la sua carriera, prima in SIP, il monopolista telefonico che poi si è trasformato negli anni in Telecom, il passaggio poi in Alitalia, il passaggio alle ferrovie, e adesso da qualche anno è tornato alla guida di Telecom, alla guida del personale della Telecom, comunque 50.000 persone da gestire. Ecco, lei ha vissuto molte ristrutturazioni. Di solito quando si parla di ristrutturazione viene in mente subito il taglio del personale, la riduzione del personale. Ma cos'è veramente una ristrutturazione di un'azienda? Un'azienda che poi deve comunque sempre ristrutturarsi, ma che ogni tanto deve fare dei grandi cambiamenti. Non esiste una regola generale, nel senso che la ragione per la quale una grande azienda ristruttura è ogni volta diversa. Sostanzialmente cambia lo scenario di mercato di riferimento, quindi cambiano le strategie aziendali. I piani con i quali l'azienda riallinea la propria capacità di intervento ai sistemi di rischi e opportunità che sono presenti sul mercato non sono una verità rivelata, non c'è una scienza per questo genere di cose, ci sono delle buone metodologie con le quali si cerca per quanto possibile di adeguare al meglio il sistema azienda al mondo. Le telecomunicazioni è, ahimè, un recinto competitivo nel quale nel corso degli ultimi 20 anni il mondo è cambiato molte volte e molto in fretta. Lei pensi soltanto ad alcune dimensioni, per esempio la numerizzazione delle centrali alla fine degli anni 80, oppure, e quindi il passaggio dalla tecnologia analogica alla tecnologia numerica nelle centrali, oppure l'esplosione della telefonia mobile. È il passaggio dentro questo perimetro dal vecchio tax al GSM. Che sembra una cosa che c'è sempre stata, ma è solo 20 anni poi in fondo la telefonia mobile. Uno dei problemi di Telecom è che ha assistito in un periodo molto concentrato al ciclo di vita della telefonia mobile. TIM è nata nel 1995. Tutta l'esplosione della domanda di cellulari in Italia è stata risolta con un grande volume di nuove assunzioni dal mercato. Ovviamente questo ha generato adesso un sovrappeso, è uno dei fattori che hanno generato il sovrappeso dimensionale di Telecom, che fa i conti con una popolazione non sufficientemente invecchiata. Quindi l'esigenza di riadeguare un po' le strutture a un mercato che cambia, un mercato che ha avuto un'esplosione in passato e adesso si sta stabilizzando. Però è possibile parlare di stabilizzazione nel mercato delle telecomunicazioni? Non ci sono cambiamenti ancora all'orizzonte? Infiniti, è un cambiamento infinito, è una trasformazione permanente. Telecom va pensata come un'azienda, cioè quando si parla di mercato delle telecomunicazioni, dell'ICT, si semplifica. Telecom opera su oltre 200 business elementari. Ciascuno di questi business elementari per molte aziende è un mercato all'interno del quale le aziende nascono, crescono, invecchiano e muoiono molto rapidamente. Dovendo fare la media del pollo, come si fa in casi di questo genere, il nostro problema è che l'anzianità del lavoro dura più a lungo della vita dei mestieri. E quindi una persona deve adattarsi a cambiare mestiere più volte durante la sua vita lavorativa. Quanto più il sistema interno, i sistemi previdenziali dell'Occidente, il sistema Italia in particolare, è costretto ovviamente ad adeguare la durata della vita lavorativa alle nuove più estese aspettative di vita, tanto più le imprese come Telecom vanno incontro a un grande impegnativo problema di progettazione di grandi riconversioni di massa. A meno che non si vada incontro al conflitto sociale, ma non è la nostra regola nella nostra storia. Ma in questa prospettiva anche il manager deve cambiare se stesso, deve cambiare il proprio approccio alla realtà aziendale. Sì, assolutamente. Diciamo che la disintermediazione è la regola più visibile. In passato le grandi comunità dirigenziali, intendo le comunità di dirigenti delle grandi aziende italiane, pensavano se stesse come destinatarie dei paradigmi del vertice, il verbo, la grande strada strategica di lungo termine, e interpreti di questo paradigma verso la grande massa dei lavoratori. No? Questa cosa non c'è più, non c'è nessun dirigente oggi che possa permettersi, a fronte di un problema da risolvere, di girarsi verso l'alto della catena manageriale e attendersi una risposta. Questo non è solo il web 2.0, diciamo, la disintermediazione totale, è anche la realtà di tutte le grandi aziende italiane. Che però è anche una maggiore assunzione di responsabilità. Sì, è anche, se posso dirlo, una demitizzazione del problema dell'errore. Cioè, sbagliando si impara, è una verità organizzativa di straordinaria efficacia oggi. Ma non sbagliare è meglio, però. Diciamo che la tollerabilità degli errori è... è un buon metro di misura per il valore del management, la sostenibilità. Come sceglie i suoi collaboratori diretti, immediati? Le aziende, e Telecom non fa eccezione, hanno un problema che è un quadrante di energia e competenza. C'era una bella lirica dell'antologia di Spoon River che diceva che in gioventù io avevo ali forti e instancabili, ma non conoscevo le montagne. Invece da vecchio io conobbi le montagne, ma le mie ali appesantite non riuscivano a seguire la mia visione. Io cerco di combinare dei gruppi in cui competenza ed energia siano mischiati a sufficienza. Penso che il mestiere di un dirigente oggi sia gestire la differenza. Tremo tutte le volte che vedo dello schematismo nella relazione con un collega. Ecco, ci può essere creatività, ci può essere anche superamento delle procedure, ci può essere anche, diciamo, una certa esuberanza gestionale in una grande impresa? Guardi, la procedura è un grande avvenire dietro le spalle, nel senso che il ritmo delle trasformazioni organizzative delle grandi imprese è tale per cui lei, dal livello macro al livello micro del funzionamento, fino al punto da poter dare delle indicazioni procedurali micro, ci va solo se deve riconfigurare un sistema informativo. Altrimenti se ne guarda bene, perché quelle procedure si troverebbe a doverle cambiare in un periodo di tempo rapidissimo. Quindi la procedura esiste, ma è qualcosa che quasi un vestito che una persona indossa senza sapere di averlo. Sì, se i settori sono ad altissima proceduralizzazione, ci sono solo due ragioni. Uno è di tipo regolatorio, cioè bisogna che qualcuno sia garantito, che qualcun altro soggetto o attore sia garantito dalla presenza di questa trama procedurale. Il secondo è di tipo contenutistico, nel senso si tratta di settori ad altissima densità di operations, quindi ad altissima automazione potenziale. Cosa consiglierebbe a un giovane che deve fare la sua scelta universitaria, magari sta facendo i primi anni di università e ha un po' l'ambizione di fare il manager? Qual è la strada da seguire in questa fase, in quest'autunno 2010? C'è una bella frase di Pupi Avati che dice che uno dei nostri problemi è quando la passione e il talento non coincidono. Nel senso che le persone fortunate sono persone che hanno talento per le cose che le appassionano, ma è una cosa che non succede sempre. Io ai giovani mi sento di consigliare di seguire la passione, perché non c'è altra strada, quindi di non preoccuparsi troppo delle previsioni circa la possibilità o meno dei livelli occupazionali in questo o quel paese, in questo o quel settore dell'economia. Ciò che conta è accettare il dato che bisogna provare ad essere i migliori. Ecco, gli economisti dicono che si sta avviando verso una ripresa che però sarà ancora una volta una ripresa senza creazione di posti di lavoro, una jobless recovery, come dicono quelli che sanno l'inglese. E questa ripresa senza creazione di posti di lavoro è qualcosa che comunque frena anche le potenzialità, gli entusiasmi, la passione stessa. Cosa si può fare? Bisogna accettare che il perimetro sia il mondo. A livello mondiale questa cosa non è vera. A livello mondiale negli ultimi 20 anni 2 miliardi di persone sono uscite fuori dalla soglia della povertà. Credo che ciò che sta succedendo è che a livello mondiale le distanze si accorciano e quindi, come dire, le opportunità ci sono, semplicemente non sono più dietro l'angolo di casa, bisogna andarsela a cercare in giro per il mondo. E magari sono più ampie del passato. Magari sono più ampie del passato. Ecco, in questa prospettiva si parla molto, tradizionalmente di Stati Uniti, adesso di Cina. Consiglierebbe a un giovane di andare a fare un'esperienza di lavoro in Cina? Ma se posso, sentirei più vicino al nostro background culturale il Brasile, anche se magari per Franco Bernabé è impopolare questa risposta perché, come sai, è un grande stimatore della Cina. Però insomma, tra le grandi realtà che crescono bisogna anche tener conto di un minimo di affinità, come dire, culturale, ambientale anche, quindi lei conosce bene il Brasile? C'è un tema di background, no, non lo conosco abbastanza bene, ma lo seguo con grande attenzione, visto che lì abbiamo Team Brasil che sta lavorando molto bene. Infatti, quindi è un paese sicuramente promettente dal punto di vista appunto della crescita, con grandi potenzialità. Quindi un giovane guardare all'esterno. Tra l'altro, noi parliamo ormai di continenti come se fossero ancora dei paesi, no? Con una semplificazione un po' brutale. Certo. Nel senso che tra le diverse regioni del Brasile o tra i diversi territori della Cina non c'è precisamente lo stesso sistema di rischi e opportunità. Indubbiamente bisogna abituarsi anche ad essere più analitici, forse in queste cose. Stavo dicendo appunto guardare all'esterno, seguire le passioni, ma le competenze avranno ancora un posto fondamentale. Nel futuro come vede la possibilità di sfruttare delle competenze? Le telecomunicazioni, la medicina, altri, quali saranno i mestieri del futuro? Ma guardi, io credo che il nostro principale gap come italiani sia ovviamente quello sui mestieri scientifici, lo è sulla ricerca, lo è sul livello di investimento che si fa. Come dire, la lezione di altri grandi sistemi paese o dei cinesi di recente o degli israeliani in tempi ancora recentissimi, noi dal punto di vista dell'attenzione ai centri di ricerca e ad alle materie scientifiche non ne abbiamo messa abbastanza. Quindi io personalmente mi permetterei di consigliare ai giovani di dare una corsia privilegiata, se possono, a questo tipo di talenti o disposizioni. E Antonio Migliardi, capo del personale Telecom, con cui dobbiamo purtroppo concludere questa conversazione, cosa vede nel suo futuro? Qualche anno di lavoro divertente, affascinante, questa è un'esperienza di cui sono grato ai miei capi e poi spero una serena pensione, ma questo non dipende da me. Ovviamente dipende anche da lei, perché sapere affrontare anche certe incognite dove avete importante come affrontare il mondo del lavoro e costruirsi in fondo da sé è altrettanto importante, così come costruire una carriera anche per gli altri, mi sembra. Grazie a lei. Grazie ad Antonio Migliardi, capo del personale della Telecom, grazie anche a Fabio Cantadori in regia, Anita Palizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere ascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica, l'appuntamento è per domenica prossima.